Il mondo guarda con maggiore preoccupazione in queste ore al virus che si sta diffondendo in Cina. Da Davos alla riunione del GOTA dell'economia mondiale, il segretario al tesoro americano minaccia l'Italia di sanzioni nel caso approvi e applichi una tassa sui colossi tecnologici. In Libia restano fermi i pozzi petroliferi. E qua, da queste parti, pare che si sia discretamente concentrati su questioni di politica interna. Insomma, si guarda un po' al proprio ombelico, Dall'ipotesi di dimissioni di Maio dalla guida dei 5 Stelle, che forse potrebbero arrivare oggi, alle elezioni in Emilia-Romagna, passando per la questione Salvini e nave Gregoretti. Di cosa si discute e si chiacchiera? Beh, ovviamente del virus cinese, delle dimissioni di Di Maio e anche dello scontro tra due mondi che si è visto sempre a Davos, quello di Greta, che ha richiamato il GOTA dell'economia mondiale sul tema del riscaldamento globale, quello di Donald Trump, che ha parlato di profeti di sventura. Per lo sport, una partita ricca ed emozionante porta il Napoli, sconfitta la Lazio in semifinale di Coppa Italia. L'Italia dello sci perde il suo uomo più in forma, Dominic Paris, si è rotto il crociato in allenamento, stagione finita. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, Eccoci in questo mercoledì 22 gennaio, sono le 6, 31 minuti e 20 secondi e vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per gli sms e i messaggi su WhatsApp, anche audio, in particolare fateci sentire la vostra voce. Oggi è dura, non so perché. È il mercoledì, questo giorno in mezzo alla settimana che è un po'... Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Facebook, siamo in diretta video come sempre, ci trovate su Instagram, su Twitter. Allora, come dicevamo in apertura, le voci italiane di oggi sono molto concentrate sul... come si dice, sul nostro ombelico, si guarda un po'... a quel che succede. Del resto, la situazione politica in grande movimento. Luigi Di Maio sarebbe vicino all'addio della guida del Movimento 5 Stelle, ma dicono alcuni pronto a ricandidarsi, perché entro 30 giorni, se si dimette entro 30 giorni, bisogna votare sulla piattaforma Rousseau. Intanto la guida la prenderebbe Vito Crimi. Che facciamo? Iniziamo da qua? Ma sì, dai. Un uomo molto vicino a Di Maio, insomma, che fa parte del gruppo storico del Movimento 5 Stelle, anche sottosegretario all'interno, se non vado errato, Carlo Sibilia, che mi sembra che con queste parole faccia capire abbastanza nitidamente che queste dimissioni possono arrivare nella giornata di oggi. Sentiamo. Di Maio fino adesso, ad oggi, è il capo politico del Movimento 5 Stelle, credo che sia una delle figure politiche più innovative dello scenario politico e ha portato un partito, una squadra giovane, da un partito d'opposizione ad una squadra di governo. Qualcuno potrebbe dire anche dal 32, ma io il futuro non lo posso prevedere. Vabbè. Definirlo, insomma, vicino a Luigi Di Maio, dalle parole che avete sentito, è forse un po' poco. Comunque, il problema è quello che ci interessava, è questa frase: ad oggi è ancora leader del Movimento 5 Stelle. Altro uomo molto vicino a Di Maio, Riccardo Fraccaro, sentiamo. Come sottosegretario, avere come Movimento 5 Stelle seduto al Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio, anche come capo politico, è un elemento ovviamente di vantaggio. Però io credo che il Movimento 5 Stelle sia sempre stato avanti rispetto agli altri nella corsa e nella proposta politica, dal mio punto di vista, proprio perché ha parlato di temi. Io mi continuerei a concentrare nel Movimento sulle proposte, sui progetti. E anche qua non si risponde. Insomma, la via sembra tracciata. L'indiscrezione era circolata nelle settimane scorse, l'aveva scritto il Fatto Quotidiano, poi Di Maio aveva smentito il suo entourage, aveva detto no, non si dimette. E invece queste dimissioni arriverebbero, perché aspettiamo la giornata di oggi, prima delle elezioni in Emilia-Romagna. Elezioni in Emilia-Romagna, dunque. C'è questo mega tour di Salvini. Sapete, poi a noi giornalisti ci arriva l'agenda, no? Come è normale, perché poi ci si lavora anche con queste cose. Ci arriva l'agenda di tutti i politici, un po' di tutti i politici. Arriva anche quella di Salvini. Praticamente ogni due ore è in una città diversa. E tra le altre cose, cosa fa? Va a citofonare a uno che la gente dice che è uno spacciatore di origine tunisina, e quindi citofona: ma lei è uno spacciatore? Sentiamo. Buongiorno, buonasera, è il signor Yaya? Lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? Eh no, a casa mia, sì, a casa sua. No, perché ci hanno segnalato cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Ma chi è questo? Ce l'hanno detto dei cittadini? Hanno detto il giusto e sbagliato? Attaccato. Ma sarà pure la polizia, saranno pure i magistrati che dovranno stabilire se uno è uno spacciatore oppure no, no? Non i cittadini, eh? Dai, su. Va bene. Questo è un po' il quadretto, non un granché in assoluto di questa campagna elettorale, che tra l'altro sul Quotidiano Nazionale, ve lo segnalo perché mi sembra una prima assoluta. La Borgonzoni e Matteo Salvini trovano uno sponsor inatteso, Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna, intervistore di Valerio Baroncini. È ora di votare per il cambiamento, dice Mihajlovic. Guardate che pesa questa roba, Anche soprattutto per tutto quello che si è detto di Mihajlovic, per come si è celebrata la figura di Mihajlovic, per come ha affrontato una malattia, insomma, Non solamente perché è l'allenatore del Bologna. Va bene. Solo un paio di spunti, poi ne arrivano altri, anche più generali. Marianna Aprile, ciao Marianna, come stai? Ciao, buongiorno a voi. Tutto bene? Sì. Ti ho visto tra l'altro ieri, eri, no, eri in televisione da Carta Bianca, da Berlinguer, proprio con Salvini. Poi magari sentiamo anche qualche passaggio di quell'intervista, al di là della questione lo spacciatore o non lo spacciatore. Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani. Angelo, ciao, eccoci. Eccoti qua. Allora, vabbè, Marianna, io partirei da questo Movimento 5 Stelle, che insomma questa mossa di Di Maio, ma che vuol dire di mettersi prima delle elezioni in Emilia-Romagna? Cioè, uno normalmente quando c'è una sconfitta elettorale, dopo una sconfitta elettorale, per quanto qua insomma si avvicini abbastanza chiaramente la sconfitta elettorale, perché si sa che la roba è polarizzata, ci sono Borgonzoni, Bonaccini al Movimento 5 Stelle, oggi tra l'altro alle 8:20 ospiteremo il candidato del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna per sentire un po' che cosa ha da dire, particolarmente interessante oggi, diciamo è prevedibile che là si raccoglierà quanto, un 5, un 6, un 7% al massimo. Ma che vuol dire di mettersi ora secondo te, Marianna? Vuol dire, credo che sia da leggere abbastanza come una conferma non solo appunto del fatto che l'Emilia Romagna è data, ma ormai da tempo e ha ragione, come l'ennesima prova della parabola discendente del consenso dei 5 Stelle, ma l'ennesima dimostrazione che Di Maio, più che sul movimento, un progetto lo ha sempre fatto più o meno su se stesso. Cioè lui è verosimilmente, stando diciamo alle indiscrezioni, alle sue confidenze ai giornalisti e ai suoi sodali che poi le riportano ai giornalisti, è abbastanza convinto di poterla gestire questa caduta, e pensa di poterla gestire facendo un passo indietro, cercando di arrivare agli Stati Generali di marzo con una, avendo dimostrato che senza di lui è uguale se non peggio, e quindi in qualche modo risalire in sella, che è un po' un colpo di coda, un azzardo che rende una debolezza abbastanza sostanziale. Cioè, non dimentichiamo, Di Maio è un capo politico più o meno ottenuto in laboratorio dal Movimento 5 Stelle, rafforzato e puntellato in ogni modo a partire dalla modifica statutaria e dell'atto fondativo del Movimento. Cioè, quando si è deciso che era lui il capo politico, e quindi diciamo, non è un ruolo che ha conquistato sul campo, cioè, è stato indirizzato su quella strada e poi incoronato attraverso, se lo ricordate, diciamo, delle votazioni su Rousseau che avevano del comico, no? Cioè c'era lui in campagna elettorale permanente e poi 6-7 aspetti sconosciuti che se la contendevano la leadership. Lui è stato, diciamo, impostato come capo politico senza averne, non per colpa sua, ma insomma, è una cosa frequente nel movimento, essendo un movimento, diciamo, giovane, senza averne la statura politica, il background e probabilmente neanche le malizie. Ha cercato, con l'aiuto di soprattutto della Casaleggio e di Davide Casaleggio e a targhe alterne di Beppe Grillo, di rimanere in sella, ma sarebbe stato, credo, impossibile col movimento ridotto come ridotto, per qualunque leader, anche, diciamo, strutturato, figurarsi per qualcuno che tutto sommato ha dovuto imparare a fare contemporaneamente il ministro, il vicepremier, il capo politico e praticamente qualsiasi altra cosa. Sì. Io credo che lui sia sinceramente convinto di poterla sfangare ancora. Sì. Dubito che possa. Quindi di farsi rieleggere. Oh, vice chiaro che intanto stanno partendo gli ascoltatori su questa storia di Salvini. Cioè, uno che ci ricorda, ve la ricordate, una pubblicità degli anni 90, per chi se la ricorda. Poteva suonare e chiedere: c'è Gigi, c'è la cremeria, se qualcuno ricorda questa pubblicità. E un altro dice: potete darmi il numero di Salvini, che ieri a mio figlio hanno fregato la merendina all'asilo e mando a suonare a casa del padre, però, del padre di questi. Allora, Simone, però posso dire vai, una cosa? Vai, vai. Cioè, al di là, è una scena oggettivamente comica, se non ridicola, però è anche di una gravità assoluta. Cioè, sono io la prima ad aver voglia di ridere davanti a quella scena lì, però è una scena che di cui non si può tacere la gravità. Cioè, un ex ministro dell'interno che si candida a governare questo paese, che fa il porta a porta con il codazzo di gente arrabbiata contro lo spacciatore. Cioè, siamo alla retata, alla gogna pubblica. Cioè, è un'operazione di una gravità assoluta. Sì, il tutto a favore di telecamere, a favore di telecamere. Angelo Perrino, sui due punti, su Di Maio e su Salvini, su questa cosa qua della quale stiamo discutendo. Oh, parliamoci chiaro. Questo è un chiaro meccanismo di comunicazione nel tentativo di polarizzare ancora una volta, e Salvini ci sta riuscendo perché ne stiamo parlando. Guardate, non è una critica, cioè è una cosa che fanno tutti, cioè un meccanismo di comunicazione ormai abbastanza standard è quello impostato in maniera massiccia da Donald Trump, ossia buttare dentro un argomento estremamente divisivo, una frase molto dura o un'azione particolarmente forte e poi far sì che le persone si dividano secondo il famoso standard, insomma, purché se ne parli. Detto ciò, è una cosa che ha una sua rilevanza, no? E fa una certa presa. Angelo, vai. Ma sul caso Di Maio aspettiamo, devo dire, probabilmente lo muove il desiderio di chiarezza al vertice di questo movimento molto frastagliato, scivoloso. L'ultima volta che il Fatto, 10 giorni fa, mi aveva scritto Di Maio lascia, io gli ho parlato e gli ho chiesto: Luigi, ma è vero questo? E lui mi disse testualmente: è una fake news, si sono fumati qualcosa. Poi gli chiesi: ma immagino che ci sia una manovra, da quello che mi dice. Dice sì, e ho detto interna o esterna, e lui mi ha detto interna come sempre. Quindi lui attribuiva la voce di sue dimissioni a manovre destabilizzanti interne al movimento, dettomi da lui personalmente. Quindi la situazione è questa: il movimento è in preda a una crisi isterica, ha una governance molto, molto anarchica, dove Beppe Grillo decide dalle sue ville che si fa l'accordo col Partito Democratico e impone a Di Maio, che non ne aveva nessuna voglia di farlo, si vota con percentuali risibili su decisioni determinanti come quella di partecipare o meno a questa o quella elezione. Penso che Di Maio voglia, forse, se confermata questa notizia, fare chiarezza, obbligare il partito a chiarire. C'è Casaleggio che non si capisce che ruolo abbia, la Rousseau, non si può governare un partito che ha la responsabilità di essere il partito di maggioranza relativa e di avere un ruolo chiave nel governo in questo casino generale. Perciò ben venga il chiarimento, ma ripeto, è un Di Maio molto agguerrito, è un ragazzo molto molto quadrato, molto, sì. E non è uno che fa i giochetti, non suona i citofoni. È una cosa molto seria. Sì. Da una parte è un dramma, dall'altra testimonia di un uomo che vuole andare avanti con chiarezza, con lucidità e con responsabilità. Allora ti rivolgerei anche su questa cosa del citofonare, perché poi stanno arrivando molti messaggi di ascoltatori. Alcuni ci dicono: guardate che insomma è un problema, nessuno lo risolve, ed è un modo di testimoniare che questo problema esiste. Traffico. Mattino. Sì? C'è Gigi? Non c'è. E la cremeria? C'è, sale. Buongiorno. Buonasera. È il signor Iaia? Scusate. No, ha ragione Marianna Aprile, è una cosa seria, però poi a volte non si resiste, soprattutto a quest'ora. Allora, Angelo, su questa storia del citofonare allo spacciatore. Guarda, presunto. Mi ricordo Amici miei, il film, ti ricordi? Impegnati, era una roba così. Tutti noi da ragazzi questo gioco lo facevamo, di bussare i campanelli e di scappar via. Mi sembra un gesto un po' situazionista. Ti ricordi quando si lanciavano le torte in faccia ai potenti? Ecco, mi pare che Salvini in questo si collochi nel filone del situazionismo, sta usando delle tecniche di linguaggio della comunicazione molto tradizionali, molto innovative. La Marianna parla di gravità, non scomoderei la parola gravità, mi sembra il gesto goliardico di un uomo che sta conquistando popolarità proprio usando queste tecniche, anche grazie al fatto che noi giornalisti gli stiamo dietro e lo seguiamo in modo compulsivo e sistematico. Vai Marianna, ti faccio rispondere, poi cambiamo argomento, andiamo sulle cose grosse, Davos e via dicendo, vai. No, sarebbe una goliardata se l'avesse fatta con i suoi amici. Dai, in campagna elettorale con codazzo di giornalisti e telecamere non è una goliardata. È un messaggio sguaiato che banalizza dall'altro la lotta allo spaccio, cioè è l'ennesimo livellamento verso il basso e verso la pancia e verso gli istinti più beceri di gogna e di additamento collettivo verso il nemico di turno, cioè, con tutto il fatto che, cioè, sappiamo tutti che il problema dello spaccio, il problema è tutto vero, dopodiché è stato ministro dell'interno, insomma era pure compito suo mettere in condizioni le forze dell'ordine per far fronte a questo problema, cioè non è questo il modo con cui si accendono i riflettori sui temi. Allora, vi voglio portare le cose un po' grosse, perché come diciamo prima, in realtà la giornata è stata caratterizzata da una serie di elementi importanti. Innanzitutto le notizie le avete sentite nel GR, poi ne riparleremo tra poco, questo virus in Cina, questo coronavirus che sta destando sempre più preoccupazioni, perché siamo arrivati a 9 vittime, oltre 400 contagiati. Pechino che dice che è un virus che potrebbe mutare. Dall'altra parte abbiamo la buona notizia che rispetto alla vicenda della SARS, la Cina sta finalmente dando, per così dire, una dimostrazione di comunicazione con le autorità sanitarie straniere. Quindi questo ci pare un elemento importante per molti versi. rassicurante, cioè qualche caso che inizia a vedersi al di fuori appunto del al di fuori della Cina, diciamo c'è un filo di preoccupazione che ha a che fare soprattutto con le tante comunità cinesi che ci sono adesso, che ci sono in Italia, che ci sono in Europa, che ci sono nel pianeta e che adesso si muovono tutti appunto verso la Cina per il Capodanno cinese e quindi stanno aumentando i controlli agli aeroporti. Poi c'è Davos, si diceva Davos, dove ci sono tutta una serie di elementi, come si diceva, il segretario del Tesoro americano che minaccia l'Italia e la Gran Bretagna in caso di web tax. La Francia che fa una parziale marcia indietro sulla web tax, perché a fronte dell'ipotesi, no, è stato lo stesso Macron, ha detto beh magari qua rallentiamo, a fronte dell'ipotesi di dazi, di sanzioni commerciali, un po' di paura se l'è presa. E poi lo scontro tra due mondi, Donald Trump e Greta Thunberg, da una parte lei che richiama i grandi del mondo al tema del riscaldamento globale e dall'altra lui che dice profeti di sventura. Abbiamo un passaggio di Greta, sentiamolo, va. But especially that we start listening to the science and that we actually start treating these crises as the crisis it is, as the crisis they are, because this is without treating this as a real crisis. La voce di Greta dunque davanti ai grandi dell'economia mondiale e la voce di Trump all'inizio del suo discorso. When I spoke at this forum 2 years ago, I told you that we had launched the great American comeback. Dove in realtà quello di Trump appare quasi un discorso elettorale, se volete. Insomma, sì, c'è quell'elemento sui profeti di sventura, un chiaro riferimento a Greta, e però è un discorso elettorale in ore nelle quali al Senato si lavora sull'impeachment al presidente americano. Marianna Aprile, che ci dici di questi due mondi che ieri sono scontrati plasticamente? No, ma è davvero incredibile come la storia riesca a rendere plasticamente i due poli delle questioni, cioè anche esteticamente e antropologicamente non potremmo essere davanti a due persone più diverse e a due posizioni più diverse. Ieri Trump ha fatto una sorta di elogio del negazionismo, no? Cioè ha passato in rassegna tutti i falsi allarmi, secondo lui, che nella storia si sono dati e in base ai quali si sono proposti cambi di rotta, rivoluzioni più o meno radicali e che poi non si sono avverati, no? per smontare l'allarme sul cambiamento climatico. E però lo ha fatto, dicevi per tu, cioè, guardando quasi esclusivamente dentro casa sua, quindi dimostrando che delle condizioni globali del pianeta tutto sommato gli importa poco, però non credo che abbia usato quella ribalta per distrarre l'attenzione da quanto succedeva a casa sua su impeachment e dintorni, perché davvero la sensazione è che di quell'impeachment importi molto poco anche agli americani, cioè sì, sanno sì. Già tutti come andrà a finire, cioè è un passaggio più o meno obbligato, oggettivamente, che anche, un po' come la questione Gregoretti fa un po' gioco a Trump, cioè. Sì, più che anche là sulla Gregoretti sono abbastanza d'accordo ed è d'accordo anche Salvini, credo, visto l'ordine di voto che ha dato, no? ai suoi senatori appunto sul suo processo che favorisca lui. Molti hanno fatto questo parallelismo tra la questione Trump impeachment e la questione Salvini Gregoretti. Angelo, rapidamente su questi due mondi a Davos. Ma Trump ha fatto il Trump, quindi nessuna sorpresa. È un uomo d'affari che guida la più grande nazione del mondo, continua a privilegiare la logica degli affari, non si è mai occupato delle questioni ambientali, anzi ha sempre boicottato le decisioni dei vertici internazionali. Lui c'è in testa l'America prima di ogni cosa, e quindi tra l'altro questo suo atteggiamento viene accentuato appunto dalla necessità di distogliere l'attenzione dall'impeachment e di guardare alle elezioni che stanno per arrivare. Non credo che si faccia influenzare da Greta, è un uomo così, insomma, molto robusto, molto adesso il problema dell'ambiente, dell'attenzione all'ambiente. Credo però che tutti i coriferi che vanno dietro a Greta sono molto ipocriti, perché in realtà sull'ambiente si fa poco o niente, e quel poco che si fa spesso è greenwashing, cioè è finto ambientalismo. Sì, sì. Abbiamo fatto qualcosa e lo mettiamo. Delle mozzarelle, ma in realtà. E lo mettiamo nella parte non finanziaria del bilancio. Va bene, grazie. Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, Marianna Aprile, grazie ad entrambi. Una pausa, GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.